e poi ci sarà 25 o'clock. Qualche minuto fa nell'automatica è comparsa una traccia di Pankow. Ricordiamo i Pankow in concerto qui a Roma al Forte Prenestino venerdì prossimo 3 giugno a sostegno di Radio Onda Rossa. Concerto che inizierà intorno alle 23 e dopo il DJ set del sottoscritto e In Noctibus Panis, programma che in genere va in onda ogni venerdì sera alle ore 21. Comunque nella programmazione di questa sera metteremo anche qualche traccia dall'ultimo lavoro degli stessi Pankow. Saluto Antichrist del progetto Omicidio in quel di Firenze, il medico della peste, Maya e Nicololocci in Sardegna, quest'ultimo come Stigmate e Hexagonal. Alberto Clipper di MDMA, Marco Milanese di Disordine, Tabula Rasa, Others con Massimo Mascherone, Cristiano Bocci di Chemical Resistance. Un grosso saluto a Giovanni Lisi di Cordi Cinti Serpente. L'ambient storica di Like Wake, Stefano Di Serio. Allora, e a proposito di ambient, cominciamo con un progetto che probabilmente troverà proprio il gradimento di Stefano Di Serio. Sto parlando dei francesi Trea Sectory. Ci andremo ad ascoltare l'ultimo loro lavoro del 2021 per questo misteriosissimo progetto ultrasotterraneo, però in attività ormai da molti anni. Lo scenario è quello più ritualistico, sacrale, oltre che le oscure dilatazioni sonore. E quindi non mi rimane che andare a presentare i primi tre brani in una lingua probabilmente simile all'hindi, quindi di origine indiana. Savern Den Harmen, Deverna e Sehan Ten Veria. Queste le prime tre tracce di Trea Sectory. il forte potere evocativo che emana questa opera di tre assettori del francese parigino, per la precisione, Dan Sorat. Si chiama Reget, quest'ultimo lavoro del 2021. Tutti i suoi album si possono rintracciare sul profilo Bandcamp, come spesso accade in questi casi. Sono immerso in un contesto di ritualistico sacrale e Tre Assettori credo che sia una delle migliori espressioni degli ultimi anni. Ringrazio Antchrist che puntualmente ci fornisce delle interessanti notizie per andare magari a approfondire proprio la storia di questo personaggio, che si esprime anche attraverso Troan, altra sua avventura musicale. E il buon Antonio qualche tempo fa mi ha messo anche a conoscenza dell'ultima uscita dei Current 93, naturalmente di David Tibbett. Un'altra perla da annoverare nel vasto panorama discografico di questo artista inglese. Si chiama If a City is Set Upon a Hill. Naturalmente tracce di neofolk, ma non solo. Disco molto notturno, anche pianistico, che andiamo immediatamente a conoscere con emozione, devo dire, attraverso le prime due tracce, If a City e There is no Zodiac. If a city, if a city is set upon a hill, under the flight of birds, over on the downs, ah, the flights of birdsong. If under the golden car, dozing buried under the grass and moss, the sweet shadow of that hill, if the middle of the well is a wing of gold, down the past path, along a long way, here's a city, and if that city holds a man, and in that man is a city on the heights of all the planets that have a pride and upset the stars, and in that woman city, a mask traced silver under her feet. If the city strikes dogs are out. The woman who circles the city in the field she lies, and over her bed shakes beyond the daisies of the city wall. Past the flowers that flow like queens into the city set upon a height, the pitchforks by home in the throat of the corn, his eyes the color clouds at night. If before the sunflowers drown by those suns, if by those flowers the city is unwell, I am still there inside you like a city. The city gate is shut in the day and not the night. If the peacock is banished and burns with a song, if under God's wing by the jawbone and hee-haw the donkey creeps silently through the door in the hall, then plague and mice under wood lie stream. Cards fire by the small church. Move your eyes to mine. Back your eyes. You promised of smoke and all that, and the words that you spoke, and so on, and all that were not inside you, but inside us all. And I flashed that jawbone. The desert and the Gitans are rising on the walls of glory. The clouds call the rain far from home. To their city, set upon a hill, and in that city, set upon a hill, I saw the sun then set. By your eyes, the sounds of thunder than anything's, whilst the sun is set, the moon locks shut, shut down lights and sparks, flickers fall down, flashes down, the sun. Shone in the corner of our room, locked and cunning. There is no one here, just photographs of the gone. Tormentato intimismo di David Tibbett, espresso anche in questo If a City is Set Upon an Hill, ultima sua fatica. Le radici sono ben impiantate nel neofolk, anche se poi negli anni ha alternato ciò a passaggi più industriali e sperimentali, se non ritualistici anche nel suo caso. Per molti di noi un amore a prima vista sin dagli anni Ottanta, ed è rimasto costante in tutti gli anni che si sono succeduti fino ai giorni nostri. Ogni lavoro di Current 93 solleva i fremiti emozionali ed emotivi di tanti di noi. And under your smiles. Saluto Francesco Monaci, in arte Smilzo, compagno di ventura di Cristiano Bocci, in un loro recente album che ci siamo ascoltati nelle scorse settimane. E se questo rappresenta un pezzo di storia per un certo tipo di interpretazione musicale, ci andiamo adesso ad ascoltare invece una cosiddetta Novel Vague, ed è al femminile, si chiama Pussy Mary. Anche lei ormai ha raggiunto quel minimo di notarietà per essere poi apprezzata da tante persone. E You Must Have Been Dreaming, nonostante si collochi in un ambito più rarefatto e meno noise rispetto ai lavori precedenti, conserva un profilo interessante e di livello assai alto. Ulteriore testimonianza sono queste due tracce di Alphabet e Ezra. Ophir and ebony, tamarisk and clay. la fascinosa austerità ambient di Pusey Mary in questa sua nuova versione. Attraverso questo You Must Have Be Dreaming, assai lontano dai furori iniziali del lontano 2011. La ricordiamo, Frederik Hofmeier, proveniente dalla Danimarca, che per molti anni ha inciso attraverso proprio la danese Posh Isolation. Poi una breve permanenza nella PAN, un'altra etichetta berlinese abbastanza emergente, per poi arrivare a questa autoproduzione che non sappiamo se sia un prodromo a un cambiamento definitivo delle sonorità di Pusey Mary. Staremo un po' a sentire. Intanto godiamoci questo ennesimo gioiello. E dunque, risaluto Nicola Locci, Dario Righi di Progetto No Name, Cecilia Miradoli di Pindar, e ringrazio Giovanni Lisi e Maia per le belle parole sia nei miei confronti, ma soprattutto di Pusey Mary. Salutiamo Giulia, Alessandra, Serena. Si cambia decisamente storia e andiamo un po' a parlare di questa iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa che si terrà il prossimo venerdì 3 giugno a Forte Prenestino, centro sociale occupato e autogestito ormai dal lontano 1986, se la memoria non mi inganna. Appunto, i Punk Off in concerto per Radio Onda Rossa. Un pezzo di storia della elettronica nostrana, ma non solo. C'è dell'EBM, dell'industrial, della danza metallica in tutto il materiale di Punk Off. L'ultimo lavoro è uscito l'anno scorso e si chiama Never Trust a White Man per la Rediviva Contempo Records di Firenze. E quindi ci godremo due episodi abbastanza tipici della discografia Punk Off e un ulteriore invece leggermente diverso, più sperimentale. E allora ci ascoltiamo Block Pie, Nowhere e Der Leierman. In squares, in spirals, in fear. Beyond the beyond the beyond. Beyond the beyond the beyond. Beyond the beyond the beyond. Beyond the beyond the beyond. Beyond the beyond the beyond. Beyond the beyond the beyond. Beyond the beyond the beyond. Beyond the beyond the beyond. Nowhere, nowhere. Not here, nor there. In circles, in squares, in spirals, in fear. In circles, in squares, in spirals, in fear. In circles. circles and squares and spirals in fear. Beyond the beyond, beyond the beyond. Beyond the beyond, beyond the beyond. Beyond the beyond, beyond the beyond. Beyond the beyond, beyond the beyond. Beyond the beyond, beyond the beyond. Beyond the beyond, beyond the beyond. Beyond the beyond, beyond the beyond. Hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht im Nimmersturm. Dreht und seine Leier steht im Nimmersturm. Ja, Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen? E questi erano i Pankow che non ti aspetti, ma è anche questo Pankow da Never Trust White Man, ultimo lavoro, da quale abbiamo estratto questa Der Leyermann e gli altri due episodi più, diciamo, consueti nel panorama di questo trio, ossia Blocco Pie e Nowhere. In attività ormai dall'inizio degli anni Ottanta, ricordiamo l'antica militanza di Alex Spalke, che è rimasto però nell'ambito del gruppo quantomeno come compositore dei testi, di tutti i testi dei Pankow. Poi la voce invece altrettanto bella è quella di Bram de Klerk, cantante proveniente dal Belgio. Rimangono poi i fondatori Maurizio Fasolo e Enzo Regi. Li vedremo a Forte Prenestino, or dunque, venerdì prossimo 3 giugno, a sottoscrizione per Radio Onde Rosse. E poi, come ho già detto, dopo il live ci sarà un DJ set del sottoscritto e anche in Noctibus Panis, valente trasmissione del venerdì sera. Vengono citati opportunamente anche Nitzereb, Front 242, e invece noi ci andiamo ad ascoltare un qualcosa che probabilmente piacerà sia ai Pankow e a tanti di noi, Esplendor Geometrico, anche questo un pezzo di storia della tribalità industriale. Anche loro, a partire dagli anni Ottanta, anche loro iniziarono più o meno nello stesso periodo dei Pankow. Questo è Cinetica, inerziale e stanzia radiofonica.